Plus Economia. Con Deborah Rosciani. E buonasera a tutti, sono le 17.06, buonasera da Deborah Rosciani. Per questa settimana sarò io a tenervi compagnia per il resoconto della giornata economico-finanziaria con Focus Economia. È il 2 gennaio, quindi la prima giornata di diretta del nostro programma del 2017, i temi non ci mancano ancora oggi, però terremo gli occhi puntati particolarmente sulle questioni di carattere finanziario, perché torneremo a parlare intanto dell'avvio della settimana finanziaria, che è decisamente brillante, particolarmente per Piazza Affari. Sta guadagnando in questo momento il FTSE MIB l'1,52%. Sono ben impostate anche le altre piazze europee, Parigi e Francoforte. Londra è chiusa per festività. Oggi non abbiamo avuto neanche indicazioni dagli Stati Uniti, perché anche il mercato americano ha continuato appunto a stare in pausa, ha allungato le festività, quindi anche Wall Street è chiusa naturalmente per questo inizio di 2017, però abbiamo una buona intonazione per i listini continentali per tante ragioni. Su Milano spingono i titoli bancari, e a questo argomento ancora una volta torneremo a dare un lungo approfondimento, ma poi ci sono anche buone indicazioni macroeconomiche che sono arrivate questa mattina, i dati che ci raccontano come sta andando il comparto manifatturiero europeo, dati che sono rielaborati dall'indice PMI appunto della manifattura nell'Eurozona, nelle principali economie europee. Sono tutti dati stamattina che sono risultati molto buoni, di gran lunga migliori delle attese, addirittura per qualche economia siamo ai massimi da qualche anno a questa parte, in Francia e in Germania, bene anche per quello che riguarda l'Italia, quindi anche questo aiuta. E quindi di questo un po' parleremo all'inizio del nostro programma, ma poi il nostro focus, come vi dicevo, sarà dedicato sia alla grande protagonista della seduta di oggi di Piazza Affari, che è il Banco BPM, oggi all'esordio in questa nuova formulazione societaria. La banca è nata dall'integrazione, come sapete, che è durata per tutto l'anno scorso, appunto tutta l'operazione ha dovuto mettere insieme tutti i tasselli per tutto il 2016, ma da oggi c'è questo nuovo soggetto finanziario quotato al FTSE MIB, il banco appunto BPM più 8,29%, ne parleremo nella prima parte della trasmissione, ma faremo un punto anche su Monte dei Paschi, che invece ancora non rientra in negoziazione, il titolo sospeso come ricorderete dal 23 dicembre, da quando il governo ha dovuto varare il provvedimento. Salva banche, ne parleremo tra poco con Luca. Non potremo poi non tornare naturalmente anche su Mediaset, il titolo oggi è in rialzo di circa un punto percentuale, ma faremo in particolar modo un approfondimento su quelle indiscrezioni che sono apparse questa mattina sul Corriere della Sera, secondo le quali un gruppo di azionisti storici con il 15-20% del capitale sarebbe pronto ad affiancare Silvio Berlusconi contro Vivendi, contro il finanziere francese Vincent Bolloré, protagonista di questa scalata ostile al Biscione. Il quotidiano aggiunge che è improbabile che Vivendi possa lanciare proprio un takeover ostile, un'offerta pubblica d'acquisto, perché gli costerebbe un po' troppo, e poi Bolloré sarebbe costretto anche a acquistare Mediaset Spagna e i Towers, e poi insomma, quindi bisogna fare tutte le valutazioni del caso. Intanto il gruppo si prepara anche a presentare a Londra il suo piano industriale al 2020, e quindi insomma è un tema del quale presumibilmente parleremo ancora a lungo. E poi gli altri temi, faremo anche un piccolo approfondimento sui saldi che iniziano oggi in alcune regioni d'Italia, e poi nel vivo si entrerà il 5 gennaio, e infine parleremo anche dell'altra grande operazione legata al fisco italiano, che è partita da 2 mesi, c'è già un primo bilancio sulla cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali. Nel gergo fiscale questa operazione si chiama definizione agevolata, alla quale stanno aderendo molti contribuenti italiani che sono un po' in difficoltà con il versamento appunto delle tasse. E insomma avete tanti argomenti da commentare anche in questa prima puntata dell'anno. Potete utilizzare sempre i soliti canali, il 349-238-6666, riceviamo i vostri sms, ma li riceviamo anche su WhatsApp. Possiamo intanto partire con le notizie in breve. Questa prima giornata dell'anno non ci consente di darvi la variazione percentuale del prezzo del petrolio, abbiamo però quelle dell'oro, e siamo a $1,152 l'once in questa prima giornata appunto dell'anno, una leggera variazione percentuale positiva rispetto alla chiusura del 2016. Allora, rivelazioni imbarazzanti riguardano il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Secondo alcuni leaks, il cui contenuto è stato pubblicato dal Guardian, dal giornale britannico, quando era premier del Lussemburgo, avrebbe segretamente bloccato gli sforzi dell'Unione Europea per contrastare l'elusione fiscale da parte delle multinazionali. I documenti riguardano le sedute del Comitato Europeo sulla tassazione delle imprese, che è un organismo creato circa una ventina d'anni fa con lo scopo di sviluppare un codice di condotta il più possibile comune fra gli Stati membri. In alcune occasioni Juncker si era impegnato per proteggere il regime in vigore nel suo Lussemburgo, impedendo di fatto che venissero introdotte norme contro i grandi gruppi. Come sottolinea il Guardian, non ci fu nulla di illecito nella sua azione, anche se di sicuro non giova all'immagine del presidente, che oggi invece è impegnato nel contrasto ai meccanismi di elusione fiscale. Vi dicevamo prima di queste statistiche che sono state pubblicate questa mattina e che hanno contribuito oggi anche a dare la spinta in questa prima seduta dell'anno ai listini continentali. Peraltro non vi ho dato la variazione percentuale di Parigi, che guadagna lo 0,37%, Francoforte più 0,77%, Milano più 1,44%. Stiamo parlando degli indici PMI manifattura. Il dato complessivo dell'Eurozona si colloca a 54,9 punti dai 53,7 di novembre. La rilevazione diffusa stamattina si riferisce proprio al mese scorso, a quello di dicembre, e praticamente si attesta ai massimi da oltre 5 anni a questa parte. Infatti il livello più alto da aprile 2011. Sono al top da qualche anno anche gli indicatori, come vi dicevo prima, francese e tedesco, ed è molto buono anche quello italiano. E quindi migliora anche in Italia più del previsto l'attività del comparto manifatturiero. In questo caso però il top è da giugno dello scorso anno. Il dato italiano è a 53,2 punti dai 52,2 di novembre. Una notizia che riguarda le pensioni italiane, perché da quest'anno tutte le prestazioni pensionistiche saranno pagate il primo giorno bancabile del mese, con la sola eccezione della rata di gennaio, cui pagamento è invece stabilito al secondo giorno bancabile del mese. Lo ha comunicato l'INPS con una nota spiegando che tutto ciò è contemplato dal decreto mille proroghe che è stato varato proprio alla fine dell'anno e che ha unificato le date di pagamento delle prestazioni INPS, INPDAP ed ENPALS. In base a questa modifica, che è stata fortemente richiesta dall'INPS, viene ripristinato appunto per l'anno 2017 il pagamento al primo giorno bancabile del mese, come vi ribadisco, con l'unica eccezione per la rata di gennaio. Allora, andiamo ad un argomento, se volete, un pochino più leggero, ma non tanto per i piccoli esercizi commerciali che aspettano generalmente invece con grande ansia questa stagione, che è quella dei saldi. Da oggi gli sconti invernali prendono il via in alcune regioni, in Basilicata, in Sicilia, domani tocca la Valle d'Aosta e poi dal 5 gennaio si parte in tutte le altre regioni. Ci sono naturalmente grandi aspettative e tutti si sono un po', come sempre, sbizzarriti a fare le loro previsioni su quanto le famiglie italiane sono disposte a spendere. Alcune associazioni dei consumatori qualche giorno fa parlavano di un budget di spesa di 250 euro per famiglia. Oggi questa cifra è stata un po' ridimensionata da Federconsumatori e Adusbef, che parlano invece di una spesa prevista per le famiglie italiane di circa 180 euro. Famiglie italiane che non saranno in grado di spendere più di tanto, un po' perché continuano a tirare la cinghia, un po' perché sono un po' intimorite dalla situazione economica internazionale, un po' perché stanno arrivando altri aumenti, in particolar modo arriveranno presto gli aumenti tariffari appunto di luce e gas, per non parlare poi di quello delle autostrade, delle quali peraltro parleremo anche domani a Cuore e Denari. Sono oltre 14 milioni e mezzo le famiglie italiane che si preparano ad acquistare prodotti nei saldi invernali, lo dice uno studio di Confesercenti. Oltre un italiano su due si dichiara interessato a queste vendite, nella stragrande maggioranza dei casi puntando sull'abbigliamento. Noi questa mattina abbiamo sentito a Cuore e Denari Carlo Massoletti, che è vicepresidente di Federazione Moda Italia Confcommercio, che ha parlato di una previsione non brillantissima sugli stessi livelli dell'anno scorso e ha anche aggiunto: non credo che, purtroppo, nonostante i saldi, appunto, potremo recuperare come esercizi commerciali quanto perso negli ultimi mesi dell'inverno. Lo riascoltiamo. Noi abbiamo fatto delle stime che complessivamente ricomprendono una cifra importante che è di 5,3 miliardi di euro è il valore dei saldi invernali. Poi declinandolo sulla famiglia noi stimiamo all'incirca 344 euro che poi rideclinato su ogni persona stimiamo la cifra intorno ai 147 euro. Ma al di là delle cifre che poi al di là delle stime insomma che lasciano sempre il tempo che trovano, la nostra previsione è comunque di un saldo non brillantissimo sugli stessi livelli dell'anno scorso. Non credo che si potrà recuperare quanto perso negli ultimi mesi dell'inverno e pertanto direi luci e ombre, ecco, perché poi dopo naturalmente ogni area geografica del nostro paese risponderà in maniera diversa. Per poter naturalmente lo stesso accontentare la clientela, molti commercianti non alla luce del sole fanno partire degli sconti prima dell'avvio ufficiale appunto della stagione dei saldi. Il fatto che le imprese commerciali comincino prima testimonia la difficoltà del mercato e che la contrazione dei consumi non si è ancora superata. E la contrazione dei consumi che non riguarda solamente le famiglie che hanno difficoltà, ma riguarda purtroppo anche le famiglie che difficoltà ne hanno di meno e che così visto il clima pensano di tenere i soldi in tasca e di rinviare i propri consumi, i propri acquisti. Per quanto riguarda il tema delle date dei saldi, devo dire che noi siamo assolutamente certi che la data fissa di partenza per tutto il paese sia la soluzione migliore, anche perché liberalizzare completamente i saldi da un lato metterebbe sicuramente in difficoltà le piccole imprese che non hanno modo di creare economie di scala, ma solo le piccole imprese commerciali, ma soprattutto poi si presterebbe a vere e proprie trappole per i consumatori che non saprebbero più riconoscere le aziende che magari vendendo prodotti di qualità mediocre caricando molto sui prezzi poi possono permettersi degli sconti rispetto a quelle che invece seguono un criterio di mercato più trasparente e più vicino alle esigenze dei consumatori. Lasciamo i saldi invernali per andare invece ai temi finanziari che sono dei sempreverdi, degli evergreen, perché insomma già per il 2016 non abbiamo fatto altro che parlare di banche e il 2017 ho la sensazione che almeno per alcune situazioni continueremo a rimanere molto saldamente su questo argomento. Allora intanto l'esordio da protagonista di Banco BPM, il nuovo titolo del terzo gruppo bancario italiano per attivi, nato ieri dalla fusione tra Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare, poi c'è il riscatto di tutto il settore del credito dopo alcune sedute un po' di sofferenza. Ecco, questi argomenti stanno consentendo oggi a Milano di inaugurare in maniera molto vivace e brillante il 2017. Vi dicevo più 1,44%, stavano andando anche un po' meglio nel corso della giornata le cose, adesso si ridimensionano un po' i guadagni, ma insomma rispetto a quel meno 10% con cui il FTSE MIB ha chiuso il 2016, quantomeno oggi inizia un pochino di rimonta. Il Banco BPM più 8,29%, il rialzo di questo titolo condiziona positivamente anche i rialzi degli altri gruppi bancari che sono in qualche maniera oggetto di operazioni straordinarie delle quali torniamo a parlare tra poco. UbiBanca più 4,36%, Popolare dell'Emilia Romagna più 3,75%, abbiamo ancora la sospensione dalle negoziazioni per Banca Monte dei Paschi. E beh, anche oggi Luca Davi, Sole 24 Ore, i temi su cui ragionare non ti sono mancati, non ci si annoia, non qua ci dentro. Si annoia mai, no su si questo... nel 2016 probabilmente neanche nel 2017. Esattamente. Allora, da che cosa cominciamo? No, è nata insomma la terza banca italiana dopo Intesa San Paolo e Unicredit. I numeri ci sono tutti, abbiamo una capitalizzazione di borsa per il Banco BPM di circa, intanto si dice così, Banco BPM, sì. Di 3 miliardi e mezzo, un gruppo che ha quasi 4 milioni di clienti, 2500 filiali sparse su tutto il territorio, 25.000 dipendenti, 170 miliardi di attivi e quanto altro. Intanto tu come ce lo puoi spiegare questo rialzo così consistente oggi del titolo? Nelle ultime settimane i titoli si muovevano proprio di pari passo perché ormai parallelo, il concambio per l'integrazione definito, certo, era definito, certo. Oggi invece cos'è questo brindisi di inizio anno? Beh, realisticamente le due banche escono da un 2016 molto problematico perché il banco ha perso il 75% del suo valore, BPM il 60%, Quindi probabilmente assistiamo a una rotazione dei titoli, anche perché ricordiamolo, quello che è successo su MPS, la garanzia dello Stato, sta probabilmente in qualche modo rasserenando il clima sul settore bancario. Molti gestori stanno guardando con più positività, con più ottimismo a quello che probabilmente sarà l'anno nuovo, e quindi è anche realistico che, come dire, ci sia un ribilanciamento delle posizioni. Ricordiamo che questa è comunque la prima fusione di due banche dal varo della riforma bancaria, della trasformazione delle banche popolari in SPA. L'unica. La prima è l'unica, perché, come dire, la riforma tra l'altro è stata stoppata dal Consiglio di Stato, ma questa è sicuramente era un'attesissima fusione. È una fusione che fa nascere, dà luogo a quello che è un terzo colosso bancario che sicuramente mancava in questo momento nel settore. Ed è una fusione su cui però comunque rimangono ancora alcune incognite. La BCE in questo momento sta esaminando ancora un po' la qualità degli attivi del banco in particolare. Nelle prossime settimane probabilmente assisteremo anche a qualche novità in questo senso. Ci sarà pure ad attendersi. Devono cedere NPL, sofferenze. Devono anche cedere, infatti questo è nel piano industriale delle due banche, della fusione. È stato previsto che cedessero 8 miliardi di crediti deteriorati entro il 2019, e questo dà l'idea, insomma, come dire, fa capire quanto il tema dei crediti deteriorati nelle banche italiane sia rilevante. La BCE sta monitorando con grandissima attenzione, l'abbiamo visto nel caso di Siena, lo stiamo vedendo nel caso di Banco BPM, lo vedremo probabilmente per tutto l'anno anche in altre banche italiane. Sta monitorando, sta marcando stretto gli istituti italiani, perché vuole che cedano sostanzialmente i crediti deteriorati. Loro possono anche volere quanto vogliono, ma se non c'è qualcuno che compra non è facile, e probabilmente questo spiega come mai tutte le banche debbano aumentare gli accantonamenti. Questo è l'unico modo per migliorare il portafoglio. Allora andiamo invece al caso Monte dei Paschi, e qua le notizie non ci mancano. Abbiamo questa sospensione dalle negoziazioni dal 23 dicembre, da quando il governo appunto ha varato il provvedimento salva banche. La notizia delle ultime ore, pubblicata proprio dal Sole 24 Ore, che riguarda Monte dei Paschi, si riferisce al fatto che il gruppo sarebbe pronto a collocare due nuove super obbligazioni grazie alle garanzie pubbliche appunto sulle future emissioni che lo Stato si è impegnato a dare. Un primo bond sarebbe pronto ad essere lanciato immediatamente, un secondo arriverebbe a febbraio. Allora, qualche giornale scriveva l'ammontare in via definizione, il Sole è stato un po' più preciso sulla cifra, ed è effettivamente un... Parliamo di 15 miliardi da raccogliere sul mercato nel 2017. Qual è il problema di fondo di questa banca? La paura che la banca fosse fragile, che non fosse in grado di rimanere in piedi sulle proprie banche, ha spinto molte persone, aziende, piccole imprese, singoli sottoscrittori e correntisti a ritirare i propri soldi. Certo. Un calo fortissimo della raccolta, pari a 13 miliardi di depositi, sono andate via sostanzialmente, sono defluiti. La banca si trova quindi nella necessità di dover raccogliere nuova liquidità. Da qui, ecco, l'importanza di una garanzia dello Stato su nuove emissioni di bond senior che verranno collocati nei prossimi... Cosa significa il fatto che siano senior? Significa che sostanzialmente arrivano nella gerarchia di rischiosità sotto i bond subordinati, e quindi sostanzialmente siano meno rischiosi dei bond subordinati, e che siano invece un po' più rischiosi dei bond covered, dei bond garantiti, che sono invece quelli che sono in mano a retail. I bond senior tendenzialmente, quelli soprattutto che verranno emessi da MPS, sono bond che vanno solamente in mano agli istituzionali, quindi non sono per i risparmiatori. Questo già fa capire quanto il tema sia ormai di fatto legato al mondo bancario in sé, deve essere in qualche modo chiusa e circoscritta, insomma, la crisi di MPS. Ecco, i due bond valgono, ci dicevi, 7 miliardi. In totale saranno 15 miliardi di nuova raccolta, ne dovranno emettere due nei prossimi tempi, uno già probabilmente dopo le ferie, dopo le feste, insomma, sostanzialmente natalizie, l'Epifania, di 2 miliardi, una nuova emissione obbligazionaria. Che rapporto c'è tra queste cifre rispetto alle richieste avanzate dalla Banca Centrale Europea, che fino a pochi giorni fa ha detto la necessità di ricapitalizzazione appunto di Banca Monte dei Paschi vale almeno 8,8 miliardi? La BCE ha detto una cosa nuova per quella che è l'esperienza italiana, perché sostanzialmente viene fuori, come sappiamo, da quello che sono stati gli stress test, ha fatto emergere una carenza, quella che si chiama una carenza patrimoniale, quindi un aggregato dovrà essere coperto appunto con nuove emissioni, con nuovo denaro fresco, quindi nuove emissioni anche azionarie. Il tema di fondo è che MPS oggi si trova a dover gestire soprattutto, oltre ovviamente a una carenza patrimoniale che dovrà essere risolta con un nuovo aumento di capitale con l'aiuto dello Ricordiamo Stato. Ricordiamo che è fallito l'aumento di capitale esattamente, nelle sue varie 5 fasi, miliardi appunto, è andato in aria, sostanzialmente è andato a gambe in aria, quindi bisogna trovare una nuova soluzione. Quindi 5 miliardi in qualche modo dovranno essere ritrovati, in qualche modo lo Stato dovrà metterci una parte, ci sarà una conversione. I detentori retail, ecco, di bond subordinati verranno comunque, questo è stato chiaro, indennizzati integralmente. Indennizzati integralmente, questa è una cosa che è importante da ricordare ovviamente a chi ci ascolta da casa, questi 40.000 sottoscrittori che si ritrovano in tasca questi bond che sono sicuramente rischiosi. Lo ha detto anche Padoan nel forum del Sole 24 Ore. Sì. Il punto di fondo è che questa banca però si trova con il, ovviamente, un fardello gigantesco, che sono sempre, come dicevamo prima, i crediti deteriorati. E sono questi 27 miliardi. Sono una mole gigantesca, sono ovviamente una massa di denaro che non riesce a rientrare nelle casse della banca. Bene, in questo senso la banca deve trovare delle soluzioni, si stanno esaminando diverse strade. Marco Morelli, l'amministratore delegato della banca, sta dialogando con Bruxelles, con Francoforte, quindi la BCE. Sì, mi sa che torna alla Banca Centrale Europea proprio in questi giorni. A breve, giorni, esattamente, deve trovare una soluzione. Tra le ipotesi, una possibile sarà quella magari della creazione di una bad bank interna che possa in qualche modo permettere lo smaltimento di queste sofferenze. Non è ovviamente un percorso facile, anche perché tutto si inserisce in un probabile rafforzamento di quello che è un piano industriale sicuramente già duro. Quindi si parla di un piano industriale lacrime e sangue, si parla di 2600 esuberi minimo, si parla di un taglio di 500 filiali, insomma MPS, certo, va incontro a una strada sicuramente in salita. In che momento invece lo Stato interverrà con la sua cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale? E questo verrà deciso a valle del dialogo che si sta in qualche modo avviando con Bruxelles. Nel momento in cui verrà definito il nuovo piano industriale e quindi verranno definiti i capisaldi di della futura MPS, della futura banca Monte Paschi, a quel punto lo Stato darà la sua garanzia e procederà con staccherà l'assegno. Padoan firmerà il suo caro e costoso assegno, ma a quel punto la banca troverà, esatto, i soldi. Operazione che renderà lo Stato primo azionista della banca, naturalmente, sì, con al 70%, credo, sì, qualcosa comunque sicuramente genere, sopra il 50%. E insomma, queste sono un po' le ultime notizie che riguardano Banca Monte dei Paschi. Secondo te, così, quando rientra in negoziazione il titolo? Il Consob ha detto sine die. Ovviamente ci troviamo di fronte a una situazione particolarmente anomala. Tutte le banche che sono state sottoposte a questo tipo di trattamento, ovviamente per evitare volatilità, devono uscire fuori del listino, perché sennò si creerebbe ovviamente un patatrac e lo vediamo, insomma, l'abbiamo visto negli ultimi tempi, una volatilità estrema. Probabilmente nelle prossime settimane capiremo qualcosa di più sicuramente. Andiamo ad un altro paio di casi, Luca, poi ti lasciamo perché tra un po' devo andare appunto anche alla pausa. Allora, UbiBanca più 4,67%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna più 3,66%. Stanno andando oggi molto bene, probabilmente per effetto anche del rialzo adesso di 9 punti del Banco BPM, ma anche qua ci sono molte cose che bollono in pentola. Per UbiBanca abbiamo in ballo l'acquisizione di 3 good bank, di appunto delle 4 famose banche risolte un anno e mezzo fa circa, ma ancora una volta la BCE era intervenuta per ostacolare in qualche maniera, comunque per rimettere ancora in discussione le offerte fatte da UbiBanca per Banca Marche, Chieti, Banca Etruria Marche e Chieti, perché Cari Ferrara andrebbe invece a Popolare dell'Emilia Romagna, l'altra seconda protagonista. Assolutamente. Le novità del giorno quali sono? Qual è il tema di fondo? BCE e soprattutto DigiComp, questa mitica istituzione che sta a Bruxelles, che si occupa sostanzialmente della competitività dei mercati, il buon funzionamento dei mercati, vuole che queste acquisizioni vengano fatte a regola d'arte. E cosa ha chiesto? Che dopo che tutto era ormai già stato definito, tutte le firme erano ormai pronte, ha detto che sostanzialmente non si fida, diciamo così, vuole rivedere e vuole far sì che i fondi di investimento che inizialmente, esatto, si erano interessati, che però erano usciti di scena, vuole che comunque vedano fino in fondo i dossier e che a quel punto davvero si tirino fuori. Quindi a questo punto stiamo attendendo un nuovo passaggio. Sono loro che si sono lamentati che non avevano DigiComp avuto in realtà DigiComp ci tiene sostanzialmente che tutto venga fatto secondo i crismi, e quindi ancora una volta Bruxelles si pone in qualche modo, entra a gamba tesa sul mercato italiano del credito. Questo sicuramente un dato di fatto. In questo senso, quindi, la novità ultima è che Carife, che è la banca forse più fragile delle quattro, ha definito un accordo sindacale per una serie di esuberi, stiamo parlando di 350 esuberi, 90 dei quali accederanno al fondo di solidarietà, mentre gli altri usciranno con degli incentivi per le dimissioni. Questo apre la strada quindi sostanzialmente alla probabile, possibile cessione della banca a Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Le altre tre banche invece rimangono sul percorso più o meno avviato, che è quello di UBI. In questo senso, probabilmente nelle prossime settimane, dopo l'epifania, potrebbero esserci novità. Bene, allora vai a studiare, che noi tra qualche giorno ti richiamiamo un'altra volta. Grazie a Luca Davi del Sole 24 Ore. Sono le 17.30, abbiamo la prima pausa, poi naturalmente pronti a raccontarvi tutto il resto della giornata finanziaria, della chiusura della seduta di borsa. Per il FTSE MIB adesso un altro scatto, più 1,58%. A tra poco. Focus Economia. Avevo un po' perso di vista le nuove basi musicali che Sebastiano Barisoni ha scelto per allietare le orecchie dei nostri ascoltatori, che naturalmente già devono ascoltare notizie finanziarie che non sempre digeriscono facilmente, quantomeno con la colonna sonora adeguata, no Roberta? Li rendiamo più felici. Allora, più 1,58% per il FTSE MIB a Piazza Affari, che si avvia a chiudere questa prima giornata dell'anno, di gran lunga la miglior piazza d'Europa. Segue Parigi più 0,29, Francoforte più 0,84, avevamo chiuso dalle contrattazioni Londra ma anche Wall Street, per cui oggi ci accontentiamo di poche ma vincenti borse. Ceo Condina, il Sole, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera Ceo, eccoci qua. Ciao, buonasera a tutti. Allora, abbiamo raccontato già con Luca Davi largamente la storia dell'integrazione tra il Banco Popolare e la Popolare di Milano, e oggi il Brindisi di borsa parla chiaro, più 9% sul finale appunto per il titolo. Tu, che avrai sicuramente raccolto qualche considerazione fra gli operatori finanziari, cosa hanno detto rispetto a questo? I titoli avevano perso molto l'anno scorso, naturalmente poi c'è stato l'adeguamento al concambio, ma c'è qualche ragione in più rispetto a questo andamento decisamente positivo di questa inaugurazione di seduta di borsa? Ma diciamo che precisiamo innanzitutto che il valore della performance non è ancora definitivo, perché sì, la manca. Borsa deve ancora chiudere, comunque finali, sì. Sarà in quell'ordine di grandezza del 9%, come hai detto tu. Sicuramente ci sono delle opinioni positive da parte dei broker, degli analisti. Oggi il clima è ancora un po', diciamo, semivacanziero, quindi i volumi sono molto sottili e diciamo ordini d'acquisto neanche troppo significativi possono spostare diciamo le performance in maniera importante. Detto questo, ci sono due temi. Uno è quello delle banche popolari, che oggi sono andate molto bene a Milano insieme a tutto il comparto bancario. Poi c'è il tema di Banco BPM, con analisti come Equita che oggi hanno sottolineato le buone prospettive per la nuova banca, e appunto secondo Equita ci potrebbe essere un taglio dei costi, potenziali sinergie superiori a quelli già enunciate nel piano industriale. Quindi sempre insomma la solita cinica borsa che risponde in maniera positiva rispetto a magari ulteriori sacrifici necessari. Diciamo anche che nell'ultima settimana del 2016 c'erano state delle sedute difficili per le banche popolari che si sono riprese poi oggi. Spiegavamo anche prima con Luca Davi che anche il provvedimento del governo preso il 23 dicembre, il famoso salva Monte dei Paschi, in realtà potrebbe avere un impatto positivo anche su tutto il resto del settore bancario in Italia. UBI Banca sul finale più 4,90%, abbiamo già parlato anche della Popolare dell'Emilia Romagna più 3,75%. Allora, oggi non abbiamo le quotazioni del petrolio, ma in compenso ai titoli petroliferi bastano le quotazioni raggiunte alla fine del 2016, perché oggi riprende a correre Saipem, Ceo. Decisamente, Saipem è da diverse sedute che in una serie positiva era rimasta per diversi mesi attorno a 0,36-0,40 euro, che erano poi il valore dell'aumento di capitale avvenuto ormai oltre un anno fa. Poi chiaramente dopo il vertice dell'OPEC che ha annunciato il taglio della produzione, molti petroliferi al di là di Saipem si sono rivitalizzati, e chiaramente anche questa società che poi si occupa di estrazione di petrolio, di infrastrutture per l'estrazione dell'oro nero, ne ha beneficiato subito in borsa. Allora, abbiamo oggi avuto un buon andamento anche per il settore delle costruzioni, cemento Buzzi Unicem più 4,49%, Brembo più 4,35%, Fiat Chrysler più 3,35%, Fineco Bank più 3%, Exor più 2,66%, la holding di casa Fiat A2A più 2,60%, Unicredit più 2,56%. Potrei continuare ancora a lungo per cercare un titolo negativo, non ne abbiamo nessuno oggi. Il titolo che guadagna meno è STM, più 0,09%, e poi pensate che fra i titoli con prestazioni più contenute abbiamo Leonardo Finmeccanica, che comunque porta a casa mezzo punto percentuale di rialzo, Campari più 0,7%. Tra un po' CEO con Antonella Olivieri del Sole 24 Ore approfondiremo le ultime novità di casa Mediaset, però intanto oggi, pur essendo ormai rimasto ben poco da comprare sul mercato, il titolo porta a casa un altro punto percentuale di guadagno. Cosa dicono gli operatori? Ma sì, diciamo oggi fa più 1%, i volumi non sono diciamo particolarmente significativi, ma l'impressione degli operatori è che magari, complice anche insomma il post Capodanno, siamo in una piccola tregua in attesa di quello che può essere insomma la battaglia finale, tra virgolette, per il insomma per il controllo, per trovare nuovi assetti all'interno del gruppo editoriale. Per contro, diciamo, se vogliamo restare un po' nella galassia appunto della famiglia Berlusconi, oggi gli acquisti si sono concentrati soprattutto su Mondadori, che vabbè, è una cosa completamente diversa da Mediaset, però secondo alcuni broker potrebbe risentire di un effetto Vivendi e sale del 9,3%. In questo caso comunque è bene precisare che Mondadori è saldamente in mano a Fininvest, e diciamo che questo rialzo potrebbe anche essere legato ad altri motivi, per esempio il fatto che a fine novembre l'azienda è entrata nello Star. Ah, ecco, quindi diciamo anche a questo aspetto guarda il mercato, al paniere a cui una società appartiene, e quindi in questo caso appunto per Mondadori l'esordio nel segmento Star evidentemente ha trovato il consenso del mercato. Piuttosto si può immaginare magari certo. In uno scenario futuristico che diciamo un alleggerimento della presa della famiglia Berlusconi da Mediaset possa portare a puntare più risorse su Mondadori. Ma ecco, sono tutti insomma ipotesi di scuola. È una bella scommessa, insomma, ci fa piacere che qualcuno continui a credere anche nell'investimento in editoria, CEO, e qua ogni riferimento è puramente casuale. Chiusa questa parentesi, allora periodicamente Radio Corriere del Sole 24 Ore, appunto, la nostra agenzia stampa conduce insieme ad Assium Forex, l'associazione degli operatori finanziari, questo sondaggio per così un po' monitorare le previsioni, per quanto possano essere ancora considerate attendibili tutte le previsioni che si fanno sull'andamento nel medio termine per i mercati finanziari. Lo avete fatto anche oggi, l'avete pubblicato. CEO, insomma, quali sono le considerazioni che gli operatori fanno, come vedono l'andamento di borsa per il 2017 al netto di sorprese? Peraltro oggi abbiamo anche considerato, abbiamo fatto questa mattina a Cuore e Denari, il fatto che anche le nuove tensioni di carattere internazionale, l'allarme terrorismo, i fatti di Istanbul di Capodanno non abbiano avuto il minimo impatto sull'andamento appunto dei mercati. Allora io andrei abbastanza telegraficamente un po' per dati. Allora, secondo diciamo la stragrande maggioranza degli operatori, per l'esattezza l'88%, nei prossimi 6 mesi la borsa sarà stabile o addirittura in crescita. Invece soltanto il 12% degli operatori prevede dei ribassi, che solo per l'1% potrebbero essere superiori, sempre i ribassi appunto al 10%. Ovviamente le previsioni, io dico sempre, che sono fatte per essere smentite. E infatti poi, l'anno scorso diciamo che questa lezione l'abbiamo appresa più volte. Poi invece per quanto riguarda lo spread, oltre metà degli operatori, il 54%, lo vede fra 125 e 150 punti base. Quindi un po' sotto il livello di oggi. Abbastanza buono. Solo il 26% lo vede sopra 150 punti base. Fra quanto li reinterpellate un'altra volta per un aggiornamento, una review delle previsioni, CEO? Sai che mi fai una domanda qui, non so rispondere. Infatti vedi, sono sempre un po' cattivella. No vabbè, penso che lo facciate questo sondaggio forse ogni 2 o 3 mesi, e quindi sì, magari a livello trimestrale, esatto, se non mi ricordo male, esatto. E vabbè, insomma, vedremo se ci avranno azzeccato almeno nelle previsioni del trimestre. Grazie a CEO Condina. Grazie, per essere anno. Stato con noi, buon anno anche a te naturalmente. Ciao. Non sapevo che il cambio di tema avesse la colonna sonora anche in questo caso. Vi domani sarò più preparata, lo dico ai nostri assistenti in studio, oltre che a Roberta appunto alla regia. Buonasera ad Antonella Olivieri del Sole 24 Ore. Buonasera. Eccoci qua. Allora, magari se le accendiamo il microfono è utile. Le vicende di casa Mediaset, anche queste oggi non hanno mancato appunto di diciamo che le banche l'hanno fatta da padrone, per cui per un giorno ci siamo un po', non dico dimenticati di Mediaset, perché in realtà poi il titolo del Biscione porta a casa anche oggi un punto percentuale. Poco fa Antonella scherzavo con CEO Condina dicendo non si capisce chi ha comprato, che cosa abbia potuto comprare, perché c'è rimasto ben poco da comprare. Sembrerebbe di sì, anche gli scambi non sono quelli dei giorni del rastrellamento, diciamo, tipo è stato scambiato lo 0,7-0,8% del capitale, è tanto ma è poco rispetto a quello a cui eravamo abituati prima di Natale. E sì, l'impressione è un po' che tutti quelli che dovevano comprare hanno comprato e che adesso si prepari una conta in assemblea. Ecco, quando è fissata la data di questa potenziale assemblea decisiva per le sorti della proprietà del Biscione? Ecco, diciamo, non c'è nessuna assemblea fissata, nel senso che la prossima assemblea ufficiale è quella del bilancio, quindi la prossima primavera. Però Vivendi, che ha già il 30% quasi dei diritti di voto, potrebbe chiedere un'assemblea per allargare il consiglio, fare ingresso in consiglio. Diciamo che in teoria potrebbe anche aspettare invece la convocazione di un'assemblea ordinaria, cioè quella del bilancio, e aspettare a fare ingresso in consiglio in quel momento. Certo che però, andando a Londra a presentare il suo piano industriale, la famiglia Berlusconi qualche cosa dovrà dirla a proposito di quello che sta accadendo. Ma dunque, per quello che ho capito, sarà un piano strategico di 3 anni, però in un'ipotesi di stand alone, cioè che rimanga il gruppo così com'è, che prendendo atto che l'alleanza con i francesi per premium è andata male, e in ogni caso non è possibile ipotizzare che rimanga fermo un gruppo in attesa del non si sa che cosa, perché a questo punto non si capisce che cosa possa succedere. Allora, però, qualche cosa di interessante lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, secondo il quale un gruppo di azionisti storici con un 15-20% del capitale potrebbe essere pronto ad affiancare Silvio Berlusconi contro Vivendi. Chi sono questi azionisti storici? Un altro concetto del quale abbiamo sentito parlare è di questi comitati per Mediaset italiana. Sì, qua ecco, siamo nella fantascienza finanziaria? No, ecco. Questo è un discorso che aveva fatto in realtà Berlusconi prima di Natale, Berlusconi Silvio, e aveva un po' fatto una specie di chiamata alle armi, diciamo così, dei soci storici. Ce ne sono tantissimi di piccoli azionisti di Mediaset, e storici nel senso che probabilmente hanno comprato, tra l'altro, a prezzi molto superiori. Ma qualcuno, per esempio, si aspettava anche che Ennio Doris facesse qualche mossa in qualche maniera. E infatti magari la sta facendo lui in qualche modo. Diciamo che nessuno sta ufficializzando niente in questo momento, però Doris ha un gruppo di gestione del risparmio. È diciamo in amicizia da decenni con Silvio Berlusconi, probabilmente una mano se poi gliela dà. Si tratta però di mobilitare il retail, cosa che non è facilissima. Al retail era attribuito una percentuale del capitale intorno al 15%. È passato di mano moltissimo capitale, quindi non si sa a questo punto chi ha in mano effettivamente le azioni, però possiamo presupporre che il retail sia stato l'ultimo a vendere, soprattutto se aveva acquistato prezzi superiori, nonostante i prezzi siano raddoppiati nel corso dell'ultimo mese. I prezzi di borsa di Mediaset sono ancora distanti probabilmente dal prezzo di acquisto del retail, e quindi è un bacino potenzialmente mobilitabile da parte, chiamiamola così, della difesa. Dall'altra parte probabilmente ci sono molti hedge fund invece, dalla parte degli investitori istituzionali. Questi forse sono più propensi a dare manforte allo scalatore, non per ragioni ideologiche, ma evidentemente perché pensano di potersi guadagnare. A proposito di questo scalatore, tu sei ancora dell'idea, Antonella, che Vincent Bolloré non prenda assolutamente in considerazione l'idea del cosiddetto takeover ostile, dell'offerta pubblica d'acquisto, perché appunto poi, sempre secondo la ricostruzione delle ultime ore, in realtà sarebbe poi costretto a lanciare la stessa offerta su Mediaset Spagna, dovrebbe sborsare molto più di quanto dovrebbe prevede. Sborsare almeno 7 miliardi. In questa fase forse non gli conviene. Diciamo che Bolloré non è noto per aver mai fatto delle grandi scalate ostili, è noto per essersi sempre infiltrato in situazioni, un momentino di cambiamento, di essere riuscito a infilarsi e a ingrandire la sua quota fino a ottenere il controllo. Per esempio in Telecom è entrato nel momento in cui si stava sfaldando Telco, è diventato senza nessuna resistenza l'azionista di riferimento di Telecom con quasi il 25%. In questo caso la resistenza c'è, perché la famiglia mi sembra si sia compattata abbastanza, mi sembra stanno rollando advisor da tutte le parti, anche molto costosi, quindi immagino che vogliano difendersi veramente. I nodi da sciogliere nei prossimi giorni quali saranno? A questo punto quali altre notizie aspettiamo? E poi ti chiedo anche oggi se intanto Milano sta chiudendo con più 1,73%, quindi abbiamo ormai la prestazione finale definitiva per Piazza Affari. Oggi il mercato ha guardato anche a quello che è successo per esempio in casa Mondadori. Il titolo del gruppo editoriale chiude, che adesso me lo son perso, con un più 9,3%. Perché ti sorprende? Perché è particolare, perché Mondadori, a differenza di Mediaset, non è contendibile. Diciamo, Mondadori ha fatto delle mosse di crescita dopo un periodo di ristrutturazione. Insomma, l'ultima operazione importante è stata l'acquisizione delle RCS Libri, e adesso dovrebbe presentare un nuovo piano dove si conosceranno meglio i programmi. Però mi sembra che l'ottica dell'amministratore delegato Mauri sia quella di puntare alla crescita comunque, perché ristrutturare solo per ristrutturare poi non porta, diciamo, sempre a guadagnare. Invece mi sembra che lui abbia un'idea dove dopo la ristrutturazione bisogna anche pensare allo sviluppo, per cui potrebbero esserci degli sviluppi interessanti. Non so, non credo che i volumi siano altissimi. No, quello è vero, all'inizio dell'anno lo dicevamo prima anche con Ceo Condina. Detto questo però, insomma, in 5 sedute più 24%, qualche cosina di effervescente sta succedendo anche qua. Antonella, grazie per essere stata con noi qua in tutto questo. Siamo già alle 17:48, devo assolutamente andare al traffico. Focus Economia. Saluto tutti gli ascoltatori che ci stanno scrivendo, in particolar modo l'amico che mi chiede: Rosciani, quando va a lavare e stirare? Fatto ieri sera, pensi un po' come ho passato il primo dell'anno. Ieri pomeriggio ho fatto la donna di casa, perché peraltro è anche un impegno che mi piace molto. Come mi piace molto dialogare con Giovanni Parente del Sole 24 Ore di Fisco e dintorni. Giovanni, buonasera. Buonasera, buon anno. Ecco, tu hai stirato ieri oppure ti sei dedicato a dell'altro? Ho fatto il papà. Per tutta la giornata. Adorabile, adorabile Giovanni, grazie. Invece io e te dobbiamo parlare di questa partenza sprint, perché così è stata definita, per la rottamazione delle cartelle esattoriali che nei primi due mesi di avvio dell'operazione della cosiddetta definizione agevolata ha registrato 100.000 adesioni alla sola Equitalia, che sta ricevendo una media di 2.500 domande al giorno. È una procedura che, ricordiamo, dalla quale il governo conta di incassare in un paio di anni almeno 3,4 miliardi di euro. Allora, ricordiamo l'ABC di questa, che noi continuiamo a chiamare rottamazione, ma che appunto abbiamo ben spiegato si chiama definizione agevolata. Questa operazione, introdotta dal decreto fiscale collegato alla manovra, partita il 4 novembre, con quale obiettivo, oltre che quello evidentemente economico per lo Stato, Giovanni? Ma quello è essenzialmente quello di ridurre il carico di tutte quante le cartelle esattoriali o dei ruoli che sono stati affidati a Equitalia nel corso degli anni e che non risultano tuttora pagati. Allora, in realtà l'arco temporale è abbastanza ben definito, mi sembra 2000-2006. 2016, esatto. 2016, scusami. Esatto. Guarda, il problema... Giovanni, aspetta lì, perché adesso dobbiamo recuperarti, perché non ho un collegamento telefonico. Riprova un po'. Eccoci, mi sentite? Adesso meglio. No, Deborah, ti dicevo, il problema è che ci sono 1.050 miliardi che nel corso degli anni, questi anni, sono stati consegnati all'Equitalia per la riscossione. Ovviamente, purtroppo, si trattava di carichi non sempre riscuotibili, tanto è vero che soltanto il 5% di questa montagna enorme può essere ancora recuperata, ed è proprio a questa cifra che guarda la rottamazione delle cartelle, con l'obiettivo appunto di portare in cassa quegli 8-3 miliardi che sono stati preventivati dal governo, e allo stesso tempo di poter dare un carico meno pesante, un risame meno pesante, certo, al nuovo soggetto che si occuperà della riscossione dal 1 luglio, che prenderà il posto di Equitalia. Allora, spieghiamo bene che cosa consiste questa definizione agevolata, perché non è che se tu ridevi allo Stato 100 euro, lo Stato ti dice no, dammene 50 e chiudiamo la partita. Tu sempre 100 gliene devi. Il tema è che ti si fa un po' di sconto sugli le sanzioni, gli interessi di mora, no? Su tutti quegli oneri applicati all'arretrato fiscale, Giovanni. Esatto, esattamente. C'è uno sconto che riguarda le sanzioni e gli interessi di mora. Tutto il resto si paga, compreso l'aggio della riscossione, che però viene ricalcolato sul nuovo importo, cioè su quello che bisognerà pagare, meno gli interessi di mora e le sanzioni. Quindi si paga un po' di meno, però l'abbiamo detto più volte, c'è un'arma a doppio taglio di questa procedura, cioè che si deve pagare tutto in un massimo di 5 rate, l'operazione va conclusa comunque il pagamento entro settembre 2018 e se si salta una sola rata non si torna più indietro, perché non si può neanche più accedere a quella che è la rateazione classica con Equitalia, che abbiamo sperimentato, che molti contribuenti hanno sperimentato nel corso degli anni, che può andare anche con pagamenti di a 6 anni o addirittura a 10 anni per quei casi in cui ci sono difficoltà di liquidità. Quindi insomma è comunque un'operazione da valutare bene, da ponderare bene all'inizio, perché poi se si aderisce bisogna pagare, altrimenti poi si perdono appunto i vantaggi della rateazione lunga che si aveva appunto con i piani attuali, in cui, ricordiamo, si pagava tutto, però si poteva dilazionare il carico in molto più tempo, in molti più anni. Certo. Senti, ma secondo te lo Stato si aspettava di avere questa mole di adesioni nel giro di 2 mesi, 100.000 che abbiamo indicato? O è un risultato superiore alle attese? Secondo me, e secondo da quello che ci dicono dalla stessa Equitalia, è un risultato superiore alle attese per quanto riguarda il debutto dell'operazione. Ricordiamo però anche un'altra cosa, che le regole sono cambiate in corso d'opera, cioè nel senso che il modello è stato diffuso dopo la prima settimana di novembre, cioè il modello per presentare l'adesione. Poi il decreto fiscale è stato cambiato in Parlamento, è stata forzata la possibilità di aderire anche per i carichi 2016, prima nel testo originale del decreto non c'era, si fermò al 2015, è stata allungato l'intervallo temporale per presentare la domanda, che inizialmente si sarebbe dovuto fermare il 23 gennaio, invece adesso, ricordiamo, la data ultima per presentare istanza di adesione è il 31 marzo. Quindi diciamo che insomma, nel cambio di regole può esserci che anche ci sia una coda crescente di contribuenti che presenteranno le domande. Poi ricordiamo che c'è anche tutta la partita aperta del versante comune, perché non si parla solo di tasse non pagate, ma anche di multe stradali. Esatto, infatti sarebbe stata la mia prossima domanda, perché come tu sai è un tema molto pop quando parliamo appunto della questione della rottamazione, perché ci sono persone che aspettano di capire come liberarsi del fardello legato alle multe stradali, e qua entrano in gioco proprio le diverse modalità di riscossione che i comuni hanno in Italia. Perché c'è importante questo aspetto, ce lo ricordi? Esattamente, perché insomma naturalmente alla definizione agevolata con Equitalia si può accedere appunto se la cartella è stata, diciamo, consegnata, notificata da Equitalia, e se quindi il comune aveva un accordo per la riscossione coattiva con Equitalia. Nel caso in cui invece la riscossione avvenga attraverso altri canali, cioè ci sia il comune la faccia da sé o la faccia attraverso società in house, come si chiamano tecnicamente, cioè società del comune, che usano l'ingiunzione fiscale, non il ruolo, è il comune che deve deliberare se aderire o meno sia per appunto le multe stradali, sia per i tributi direttamente gestiti, come ad esempio i tributi sugli immobili, come l'IMU, la TASI la TARSU o Voratari. Quindi c'è questa doppia dinamica, e quindi bisogna fare attenzione a che cosa ha deliberato il proprio comune se appunto aderire o meno alla definizione agevolata. Intanto, sempre ritornando sul comportamento adottato da questi 100.000 contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, leggevo che circa la metà di questi contribuenti si sono presentati direttamente allo sportello per avanzare appunto la loro domanda. Il 27% appunto dei contribuenti interessati l'ha inviata via posta elettronica certificata, e il 18% ha utilizzato l'email ordinaria. È una procedura facile, Giovanni? Tutto sommato non è così difficile presentare la domanda, il problema è che deve essere accettata da qualcun altro. No, tanto il problema è, secondo me, farsi un calcolo preventivo. Cioè, perché come dicevo prima, bisogna verificare se si ha la liquidità sufficiente per poter sopportare il piano, certo, tra virgolette, di ammortamento. Uso una parola difficile, ma sostanzialmente vuol dire che sei in grado o meno di pagare in 5 rate tutto l'importo che devi. Beh, non è difficile, lo conosciamo anche per il mutuo, lo stesso, insomma, c'è il piano di ammortamento in un sacco, esatto, di anni. Le rate, esatto, più o meno funzionano tutte allo stesso modo. Esatto, perché lì c'è appunto questa questo obbligo di dover, cioè di non poter neanche saltare un pagamento in questo caso. Cioè, quindi, perché se si salta un pagamento, salta tutta la definizione agevolata, si esce fuori dall'opportunità. Esatto, esatto. E quindi secondo me è bene informarsi preventivamente, insomma, anche prima di presentare la domanda, è bene magari per chi ha tempo farsi, certo, farsi due calcoli. Noi abbiamo attivato un calcolatore sul sito del Sole 24 Ore che in qualche modo consente di farsi un'idea, ovviamente non è quindi è valido ai fini di legge, però insomma ti consente di farsi un'idea. E sicuramente seguiremo anche con domande e risposte nei prossimi giorni tutta quanta la partita. Però insomma, interfacciarsi con Equitalia prima di presentare la domanda può essere utile. Infatti guarda, ce lo segnala proprio sul finale un ascoltatore, Vittorio, che scrive: se ho 20.000 euro di debiti con Equitalia perché non sono riuscita a pagare nei termini nel corso degli anni, come faccio a pagare in 5 rate? Infatti Giovanni suggerisce: fatevi un calcolo, comunque tutti gli oneri rispetto a questo arretrato appunto si risparmiano. Giovanni, grazie. Io anticipo anche che domani parleremo con una commercialista di questo argomento a cuore e denari, per cui ritorneremo sugli aspetti pratici della definizione agevolata. Intanto Focus Economia per stasera termina qui, ci sentiamo domani, buona serata a tutti. Radio 24, libera la voglia di fare.